Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Buongiorno e benvenuti, Mangia come parli. Come va, chef? Bene, bene. Tutto bene, buongiorno a tutti. Molto buongiorno, bene. Buongiorno Pier. Bene, ci siamo occupati di funghi e di pomodoro. Oggi il tema della puntata è il riso, terza puntata. Vi ricordo che c'è il momento dell'SOS Oldani, che sta diventando un must, un cult. Chiamateci allo 02 46 52 41 84. Mandate anche i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. Poi ci sarà il momento della ricetta, ma io do già il benvenuto a un grande ospite e ha un grande buon gustaio, che è Gerry Scotti. Come va? Grazie ad aver pensato a me, insomma. Ciao Gerry, buongiorno. Ciao, ciao amico mio. Guardate, per ricambiare la simpatia, direi che siete due con cui andrei volentieri a cena. Beh, ma organizziamo. Fra l'altro devo dire che io ogni tanto incontro casualmente in un ristorante di Gaggiano, possiamo dire. Sì, possiamo dirlo, che lo conosce anche Oldani. Esatto, tanto, specialista in galletti, possiamo dire anche questo. Incontro Gerry, allora da lì ho la conferma del fatto che sia un gourmet, un appassionato di passioni. Guarda, di cibo. Con Oldani abbiamo fatto un bel pomeriggio in un simposio, in un congresso, parlando del cibo della memoria, quindi insomma abbiamo già avuto modo di parlare un po' dei miei gusti e delle sue scelte. Ecco, però quali sono i tuoi gusti? Sono gusti molto semplici, molto legati alla tradizione. Per uno nato in provincia di Pavia, dove metà dei miei parenti coltivavano il riso, prova un po' a indovinare quale possa essere uno dei miei piatti preferiti. Immagino. Non a caso abbiamo pensato a te per questo. Grazie. Un rapporto profondo lì per tutta questo famoso 45esimo parallelo. Insomma, per chi non lo sapesse, ci sono queste tre province che sono Vercelli, Novara e Pavia, che producono la maggior parte di tutto il riso che c'è in Europa. Cioè lì è proprio un elemento fondante della... fa parte della nostra cultura. Le nostre nonne, le nostre zie, quando non c'era abbastanza lavoro, andavano a fare le montine. Ancora parecchi dei miei parenti fanno questo lavoro, certo adesso molto aiutati dai trattori, dai macchinari, dai puntatori laser, dalle chiuse che si possono comandare elettronicamente, però insomma è pur sempre un lavoro duro e molto rischioso, perché come diceva mio nonno, il riso è per terra, quindi Allora, bisogna piegare lo schienone. Tue passioni, Gerry, quindi cibo, mi viene da dire un proverbio: il riso nasce nell'acqua e deve morire nel vino. Questo lo dicevano. Guarda, cosa mi dici? È un mantra, Davide. Io sono nato con una famiglia, metà della mia famiglia si occupava di quello, di coltivare riso, e l'altra, da parte di mio nonno paterno, aveva una piccola vigna. Non è che producesse vino, vendeva l'uva all'Oltrepò Pavese per fare il vino, e il destino ha voluto che adesso io abbia intrapreso, come tu sai, questa piccola e modestissima attività quasi hobbistica di produttore di vini. Ho il mio rosso che tu hai assaggiato, ho il mio bianco che tu hai assaggiato e un rosato che si chiama Pungranin, che è stato il successo dell'estate. Pungranin. Abbinato al dialetto. Pungranin, che vuol dire, scusate, il Pungranin è il melograno, è il nome melograno della vigna. Il bianco si chiama Mesdì, che vuol dire mezzogiorno. E invece, attenzione, il rosso è Regiù, ossia il capofamiglia. Il padre, il capofamiglia. Vabbè, sto facendo lezione di cucina e di lombardo al tempo stesso. È una bugia storica, perché il Regiù esisteva, ma Davide lo sa bene, comandava la Regiura. Esatto, era solo l'immagine a Milano si diceva Regiò nel tre posti di Regiù. Sì, però vedi, pressa poco, Regiù. È quello. Gerry, se io ti dicessi che tolgo il riso dalle sfumature nella cottura iniziale, cosa mi dici? Va bene, non va bene? Anzi, io lo faccio per dare un valore aggiunto al vino, lo faccio proprio per degustare il vino a parte, per avere un riso più pulito che sappia di cereale. Cosa mi dici? Maestro, se lo dice lei, io ti dico una cosa: tutti pensano che uno nato nelle risaie chissà che tipo di risotti predilige. Ora, non stupitevi se vi dico che il mio modo preferito, proprio per la ragione che vi ha appena detto Oldani, è il riso in bianco. Se volete sentire il profumo del riso, che poi diventa il sapore del riso nelle sue varie varianti, perché il riso ha tante sfumature, dovete farvi il riso in bianco, però per qualcuno è una punizione, per qualcun altro vuol dire dieta, però invece chi lo apprezza sente un profumo assolutamente del cereale ed è una meraviglia. Jerry, mi dici una cosa, nel tuo successo che è stato radiofonico, televisivo, il fatto insomma di essere, tu sei in perfetta forma, insomma diciamo io mi ispiro a te, no? Nelle forme, nelle movenze. Guardo, stia attento che lei si sta parlando allo specchio. No, esatto, ma è proprio questo volevo sapere, cioè aiuta un po', perché poi insomma siamo persone, mi ci metto anch'io, persone morbide, amanti della vita. Allora, diciamo così, poi c'è lì Davide Oldani che ti fa incazzare solo a guardarlo. È magro, gioca a pallone, corre. Ma guarda, è ingrassato di 300 grammi. Guarda che Pier mi sta seguendo, guarda che ti accorgerai. Guardate, la fisicità è una cosa importante nella carriera di un uomo di spettacolo. Adesso il cliché li vuole tutti magri, tirati, figaccioni, eccetera, eccetera. Io penso che tu, Pardo, se sei diventato Pardo, distinguibile in mezzo a tutti i suoi colleghi, sia anche per quella tua connotazione. Perché sono grosso, no, mi si vede. Perché si diventa anche un personaggio. E io pure, lo dico sempre, finché questo non va a incidere con problemi di salute. Assolutamente. Ecco, questo è molto importante. Ma come cucini? Sei bravo? Ma io, sai, non posso vantare grandi stili in cucina se non le cose che ho imparato da ragazzo vedendo prima le mie nonne e poi le mie zie e poi mia mamma fare quelle cose lì. E ne parlavo con Oldani in quell'incontro che abbiamo fatto un po' di mesi fa, una delle cose che mi riesce meglio è il cibo del giorno dopo, cioè il riciclo, il recupero di ciò che è avanzato. Quindi, il riso al salto, per esempio, è fatto così, Oldani, il riso al salto, no? Secondo me è una cosa spettacolare. Allora, è Jerry, una delle cose più buone. Aspettaci 30 secondi lì, perché è il momento del traffico, anche alle 9 e un quarto di mattina. Chi ci ascolta in replica, ovviamente sono le 8 e un quarto di sera, vuole sapere il traffico. Ripartiamo con un paio di curiosità finali con Jerry Scotti e poi tutto il resto, l'SOS Oldani e tante altre cose. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta Mangia come parli, mangia come parli. E allora Jerry Scotti ha evocato il riso al salto. Cos'è il riso al salto, Oldani? È un must della cucina milanese. Il riso al salto è un must, o lo era, della cucina milanese, perché arriva dalla cultura dei milanesi, dalla cultura delle mamme, della gestione della famiglia. Vuol dire che si faceva in abbondanza senza pesare la quantità di riso per la famiglia, e quello che avanzava lo si conservava in frigo e il giorno dopo lo si recuperava. Credo che non sia più molto attuale, e in una famiglia come la mia devo dire che il riso al salto l'ho sempre visto poco, perché la mia mamma è sempre stata l'economa della famiglia, dove pesava ogni cosa. Quindi arrivavi, aspettavi la crosta che si formava sulla padella in rame, stagnato, e poi non c'erano avanzi, quindi il giorno dopo non ho quasi mai visto il riso al salto. Per me è stata una novità quando ho cominciato a fare il mio mestiere. Quando hai cominciato a farlo? Invece Jerry, tu l'hai mangiato e ti piace? Sì, no, era un classico, lo so fare, ne ho provato una rivisitazione meravigliosa che vi dimostra come il cibo possa unire delle culture assolutamente diverse. Sono stato in un ristorante siciliano, che i siciliani sono finalmente diventati molto bravi a trattare le loro cose e a parlarne, perché hanno l'oro lì nella loro terra, e mi hanno proposto, Raul Dani aprirà gli occhi, uno stranissimo riso al salto con sopra appoggiato una mezza arancina. Sono le due culture che si baciano, cioè in fin dei conti hanno la stessa base, partono dalla stessa idea, ma sembrava un bacio di dama, tanto per intenderci, un macaron fatto con due tipi di risi diversi, due cotture diverse, ma vi assicuro che si baciano. È trasversale, perché anch'io nel mio ristorante faccio questo pane, pepe nero, marsala e riso, che è un incrocio tra la Sicilia e la mia milanesità. Beh, devo dire che l'arancino ci tocca venire a mangiarlo. L'arancino o arancina, a seconda che si sia a Palermo o a Catania. Ma sai, lì c'è disputa, non vogliamo far arrabbiare né quelli di Palermo né quelli di Catania. È un classico anche dello street food, no? Del cibo di strada. Sì, perché è un cibo pratico, però come diceva poco fa Jerry, io farei molta attenzione sul pubblicizzare, naturalmente questa è la tradizione, va bene, però bisogna fare attenzione a fare quella comunicazione, quella cucina che faccia solo del bene. Quindi evviva gli arancini o arancino, però evviva anche le giuste quantità nel cibo, questo dobbiamo ricordarlo. Questo dice per noi, Jerry, hai capito? Lo dico. Se ti Hai sentito Oldani? Siete una radio anche di informazione. La statistica che ho letto negli scorsi giorni sui giornali è che dopo il monito degli scorsi anni l'Italia ha sprecato il 20% in meno in fatto di cibo. E questa è una cosa che sta molto a cuore a Oldani, certo. E vi garantisco sta molto a cuore anche a me. Abbiamo imparato a sprecare meno. Poi sai che il gusto non è più, oramai il gusto va nella direzione della qualità dei prodotti, soprattutto la leggerezza. Quindi ponderare sia i grassi che siano olio o burro, o magari anche deviare un po' nelle fritture, non è male, andando a completare con quelle che sono le erbe, le spezie, le cotture al vapore, che hanno altrettanto gusto, che però fanno bene. Ecco, noi ti seguiamo, maestro. Noi lo seguiamo, poi però cercheremo di migliorare, sì, facciamo però, questo fioretto. Cioè, noi lo seguiamo, poi a certo ora però lo seminiamo, andiamo a farci un risotto. Andiamo a farci una porcheria. Esatto. Grazie Jerry, grazie di cuore, in bocca al lupo per tutto. In bocca al lupo. Ciao anche a te. Ciao. Beh, insomma, è ospite straordinario che si lega al concetto del riso, la cultura pavese, le tre regioni, le tre province che rappresentano l'oro, rappresentano il luogo dove il riso italiano domina, poi domina in tutto il mondo, ovviamente. Pavia, riso Novara italiano, e cultura italiana, Bene, ci sono tante cose da dire. Vi ricordo fra poco l'SOS Soldani, vi ricordo la segreteria 02 46 52 41 84 e anche i vostri messaggi WhatsApp vocali per interagire con lo chef 349 23 86 666. Mi dici che ricetta mi farai fare, così comincio a abituarmi al pensiero dell'interno. Siamo su una ricetta classica, zafferano e riso alla milanese. Zafferano e riso. Io direi 2015 per ricordare Expo. Devo dopo dire, l'abbiamo mangiata anche in una cena, nella cena meravigliosa per i 150 anni della galleria a Milano con il sindaco, una cena bellissima, devo dire, ed era buono. Mi insegnerai a farlo? Adesso, perché ti darò la mia versione nuova, dove non c'è soffritto, dove non c'è vino, non c'è brodo, c'è però il riso e lo zafferano. Ah, va bene, che sono le due cose più importanti. C'è il professor Valerio Berruti? Sì. Come va? Ciao. Come va? Professore, ciao Valerio, buongiorno. Ciao, raccontacelo Oldani, chi è il signor Berruti? È un grande uomo che fa della sua vita quello che più riesce, cioè fa l'artista, lo fa con testa e lo fa soprattutto col cuore. Ecco, ed è nato in un luogo un po' speciale per tutti quelli che amano il cibo, diciamo in una delle capitali del cibo italiano. E mondiale, ad Alba. Sì, sono di Alba, sì, sono molto fortunato, avendo la passione del cibo, essere nati ad Alba è un privilegio grande. Ecco, esatto, quindi cibo e arte, queste video installazioni, tutti i lavori, il recupero di un'arte grezza, con materiali umili ma che possono ovviamente regalare grandissime emozioni. Il rapporto col cibo com'è? Quanto è un'ispirazione per un artista il cibo, magari proprio il cibo di quella terra lì, dove c'è del gran riso, c'è anche del gran tartufo, ma fra poco ci arriviamo. Grandi nocciole, grandi vini, insomma, esatto. c'è tanto nella tua terra, Valerio. Vero? Sì, guarda, le materie prime qua sono veramente il top. C'era un amico che diceva che qua nelle Langhe, se ti lanci una scarpa per terra ti nasce un albero di scarpe, perché alla fine è veramente questo microclima che è a metà fra la Liguria e la montagna, quindi di mattina si sente l'odore del mare, di sera si sente l'odore della montagna. È una cosa che sicuramente aiuta a fare i tartufi, così come i funghi, così come l'uva, a avere dei prodotti di altissima qualità. E quindi nella mia vita, sai, nelle Langhe noi parliamo sempre solo di mangiare, quindi il nostro argomento principe è quello. Noi ci troviamo a parlare di mangiare. Anch'io a Roma con i miei amici molto umilmente, o anche a Milano, insomma, di cibo si parla e poi si passa spesso all'azione, no? Il tartufo bianco di Alba, che è un'eccellenza ovviamente mondiale. Sì, guarda, noi il tartufo bianco è una chicca che abbiamo qua, abbiamo anche questa fiera che lo valorizza in modo pazzesco, che permette anche a chi non è di Alba di poterlo gustare. Tra l'altro quest'anno è da un po' di anni che c'è anche questa, ci sono dei giudici che ti aiutano a capire se è veramente o no di Alba il tartufo, che sono quelle cose che alla fine sono servite per il test del DNA, che fanno? C'è anche un'asta molto importante, vero Valerio? No, odorano tramite l'odore, tramite chi se ne intende lo riconosce, quindi ci sono degli esperti all'interno della fiera che ti danno attraverso il pedigree del tartufo. Valerio, una curiosità finale: tu hai esposto a Golgotha alla Esso Gallery di New York, a Tokyo, hai però anche lavorato con Paolo Conte. Io ho una passione musicale, insomma, stiamo parlando veramente di com'è lavorare con Paolo Conte? Guarda, lui è un grande, è proprio una bella persona, umile, è stata per me un'emozione, io ho lavorato con lui alla Biennale di Venezia, quando mi hanno chiamato alla Biennale di Venezia, e sono stato il giovane artista a fare la Biennale di Venezia nella storia, fino a me, fino a qua, alla mia edizione, e quindi avevo questa ansia pazzesca, e io avevo detto, se la devo fare vorrei che ci fosse un mio grande maestro, che Fenoglio era morto, ho detto almeno Paolo Conte c'è ancora, e sono andato a chiedergli se voleva fare la colonna sonora per la mia animazione, e lui ha accettato di farla, e quindi è stato una, però l'aneddoto è che prima di andare da Paolo a chiedergli ero talmente in ansia, perché avevo paura che poi lui dicesse di nuovo, mi trattasse male, fosse, sai, che non dicono che non bisogna mai conoscere i propri idoli, perché poi rischi che non ti piace più quello che fanno. Io allora sono arrivato mezz'ora prima in questo paesino vicino ad Asti, dove Paolo Conte ha lo studio di registrazione. Sono andato nel bar di quel paesino e con le cuffie mi sono ascoltato Via con me. E ho detto, se poi non è come mi immagino, almeno me la godo l'ultima volta, perché adesso poi magari non mi piacerà più. E invece, dopo che l'ho conosciuto, mi piace ancora di più. Valerio, noi ti ringraziamo. Adesso sta arrivando per me un momento importantissimo, e quindi poi continua ad ascoltarci, perché fra poco, insomma, il maestro, lo chef qua ci darà tutta la verità su quella che è la ricetta. E allora, zafferano e riso, eh? Quindi cosa mi vorresti dire? Tu sei sempre, capito, tipo funghi e mela, zafferano e riso. Mi piace questa cosa, perché l'essenza delle cose. L'essenza, ma soprattutto la comunicazione, prima che tu inizi a mangiare un piatto, la devi avere chiara. Quindi allora, tu sentirai un profumo di zafferano e poi il riso. Allora, cominciamo. Scrivo due cose, perché poi vai. Ok, allora, io farei una pentola calda dove mettiamo un riso. Io adoro molto il carnaroli, anche un carnaroli stagionato. Va bene, carnaroli. Ok, lo tosto senza nessun grasso, fino a che il profumo del cereale non arrivi in maniera intensa. Lo tosti, vuol dire che metti il riso e il fuoco. La pentola, attenzione. No, dico, ma non c'è olio, niente. Non è così strano. Ho ripreso un po' il metodo della vecchia ricetta del curry. Ma il fuoco com'è? Alto, basso? No, medio-basso. Tu devi, per capire la tostatura, sentire se il profumo del cereale esce, quindi a un certo punto deciderai di cominciare a bagnare con l'acqua. Ok. Oppure toccarlo con le mani nel momento in cui il riso è caldo, capisci che è tostato e cominci a bagnare con l'acqua. Ok, perfetto. Okay? Lo porti a cottura. Di solito il carnaroli che io utilizzo dell'Oltrepò Pavese, 18 mesi, la stagionatura mia, prende sui 18-20 minuti. Ok, perfetto. Quindi lo porto a cottura, al termine della cottura lo tolgo dal fuoco, faccio abbassare un po' la temperatura, metto una noce leggera di burro dolce, un po' di grana padano 27 mesi perché è il gusto mio. Mi piace. Un tocco di aceto perché l'acidità aiuterà poi nella digestione, aiuterà poi nell'alleggerire il piatto. Un aceto di vino bianco. Ok. E questo è il mio foglio bianco. A parte, avrò preparato un'infusione di zafferano, acqua e un filo di maizena per addensare. Quindi che è maizena? Maizena è una farina. Maizena vuol dire Genova? No, vuol dire una farina di mais, una farina che mi serve per addensare leggermente l'acqua, neutra di sapore. Quindi aggiungerò a quest'acqua calda un po' di pistilli di zafferano, possibilmente lombardi. Io quelli che sto utilizzando adesso sono prodotti in Como, vicino a Como. Okay. E basta, lascio riposare, lascio in infusione lo zafferano, dopodiché metterò questo mio riso mantecato nel piatto e sopra farò una spirale con questa salsa di zafferano. Quando mangerai sentirai il profumo dello zafferano intenso e in seconda battuta il profumo del riso. Midollo? Midollo, io direi che non è più molto, a parte la storia di Luca Pazza, eccetera, però direi che non fa parte del nuovo mio quindi modo di approcciare al cibo. Quindi è un risotto smidollato questo? È un risotto smidollato, esatto. Risotto milanese smidollato, però non neanche male. Neanche senza brodo, eh? Anche senza brodo, no, ma è molto interessante. Anche senza vino, abbiamo detto. Anche senza vino, sì. C'è solo l'aceto di vino nella parte. Sì, ci sono, okay. Ci sono. Dopo te la ripeto così la focalizziamo meglio. Fra poco abbiamo un grande ospite con il quale parlare sempre di quei luoghi, del riso, del rapporto col Piemonte, di Torino, ovviamente. Tutto questo fra pochissimo. Vi ricordo, ovviamente, l'SOS Oldani in arrivo e potete lasciarci i vostri messaggi allo 02 46 52 41 84 oppure i messaggi vocali con WhatsApp 349 238 6666. Mangia come parli. Scusi, che lei è di qua? Senta, che lei sappia, ci sta qua su una tomba un cognome come Sorriso, Rise, Risata, come mi viene da ride. C'è poco da ridere. Carlo Verdone, beh, una botta di romanità in una puntata che è molto padana, molto pavese, molto piemontese, perché il tema di oggi principale è il riso, anche se vi ricordo che allo 02 46 52 41 84 oppure con i vostri messaggi WhatsApp 349 238 6666 potete chiedere allo chef Oldani di tutto, insomma, dalla bottarga al prosciutto, dal parmigiano, tutto quello che volete. Tutto quello che volete. Abbiamo un maestro di questo mestiere che è il giornalismo e anche credo un appassionato di cucina, perché chi non è appassionato di cucina? Lo chiedo a Massimo Gramellini, come va? No, non so di cosa sono maestro, di sicuro non di cucina, no. Sono maestro di assaggi. Quello, buongiorno, buongiorno. È specialità olimpica quella, Massimo, è specialità olimpica quella dell'assaggio. Posso candidarmi alle prossime Olimpiadi. Cintura nera di ristoranti. Allora, Torino ovviamente è una città molto importante per te, per la tua vita, ed è una città, insomma, il tema di oggi è il riso, ne abbiamo parlato prima con Gerry Scotti, è un elemento importante, no, della cultura gastronomica di questa città. Sì, diciamo di questa regione, poi esatto. Il riso nasce ovviamente, cioè, con il suo cuore è chiaramente Vercelli, però... Sicuramente a Torino, io sono cresciuto, il risotto ai funghi è un piatto, diciamo, che per un bambino di Torino è uno dei cibi dell'anima, cioè quelli che poi ti porti per tutta la vita. Io ancora adesso quando sento proprio il profumo di un risotto ai funghi mi sento felice, che lo associo a dei ricordi proprio dell'infanzia, quindi è davvero qualcosa che mi apre il cuore. Quello è proprio il mio risotto, poi naturalmente ci sono tanti altri, un risotto molto torinese e piemontese è il riso al barolo che viene servito nel famoso ristorante del Cambio, certo, che ma anche in tanti altri, diciamo, è nato un po' lì. Piatto molto leggero, molto estivo. Piatto, no? Sì, assolutamente, ve lo consiglio, Ferragosto, perfetto, magari seguito anche dal brasato al barolo, che ecco. Diciamo, quella giunta. Ragazzi, potrebbe essere alleggerito, lo sapete. Ecco, adesso vediamo se lo chef riesce a alleggerire. No, la tradizione... Allora, la tradizione va rispettata e ancor di più vanno rispettati i prodotti del territorio. Credo che bere un bel bicchiere di barolo, di quelli giusti, abbinato a un riso che è cotto e mantecato, quel giusto, naturalmente un Carnaroli, perché col Piemonte bisogna giocare bene in casa col Carnaroli, credo che sia la soddisfazione più bella, piuttosto che un riso dove cuoci e stracuoci un vino così importante che ci rappresenta nel mondo. Assolutamente. Senti, tra le tante belle cose che hai fatto in TV, oltre che ovviamente nei due pezzi che leggiamo quotidianamente, ci sono le parole della settimana. Si parla sempre di più di cibo, no? Ci sono questi chef che sono ormai delle star di livello internazionale. Sembra un settore che non conosce crisi e soprattutto c'è curiosità. Il concetto di cibo viene declinato in forma e in modi sempre più interessanti. Sai cosa? Io penso davvero che una delle cose in cui è servito moltissimo lo sviluppo che la TV ha dato ai cuochi è stato rivalutare questa professione. Cioè, fino a qualche anno fa la professione del cuoco non aveva una considerazione sociale. Oggi una mamma è contenta di poter dire che il figlio studia per diventare cuoco. Mi piacerebbe che questa cosa avvenisse anche per altri mestieri che hanno a che fare con un uso artistico delle mani. Penso ad esempio al falegname, è un mestiere meraviglioso, no? Eppure è vissuto ancora come un lavoro così quasi di cui vergognarsi, perché non è un lavoro intellettuale. Ora, da persona che fa un lavoro, appunto, il cosiddetto si va per dire usando più il cervello, no, che la forza fisica, certo, dico invece che è importante rivalutare questo artigianato di qualità che è la nostra vera caratteristica, e i cuochi italiani sono veramente, rappresentano questo nel mondo. Io, se mi permette il tempo, faccio un aneddoto di 30 secondi. Mi capitò di andare a Londra a fare un'inchiesta su un importante centro di difesa, insomma, europeo, un grande organismo europeo, e conobbi un po' tutti i responsabili e dissi poi al direttore: scusi, ma non ho visto però nessun italiano. E lui mi rispose: no, guardi, un italiano c'è ed ha il ruolo più importante, è il capo del catering. Cioè, certo. Nel senso che comunque a noi viene riconosciuto questa eccellenza in questo, e io trovo che sia di cui andare orgogliosi, non di cui vergognarsi. Mi viene in mente, perché... Gregori, nel cuoco di Salò, anche in mezzo a un naufragio, esatto, si deve mangiare, no? Poi alla fine ci sono e cucinare per gli altri, insomma, è una delle forme di altruismo. È dare un qualcosa, quindi rendere felici le persone. Credo che sia il più bel modo della convivialità e dell'ospitalità, è quella per la quale noi siamo riconosciuti in tutto il mondo. Senti, la panissa, uno e due, chef e Gramels. Allora, che cos'è la panissa? Sentiamo Gramellini prima. Io non sono un esperto, perché è quello un piatto veramente vercellese. L'ho mangiato una volta a Vercelli, circa 15 anni fa. Sto per finire di digerirlo, ma quando succederà vi faccio una telefonata. C'è ottimismo. Cos'è la panissa, chef? Ma la panissa è, si può dire, anche un piatto unico, volendo, perché un piatto c'è... definitivo. Terminale. No, perché c'è un legume che è il fagiolo, c'è una salsiccia che è una carne, c'è un riso che è un cereale. Quindi, se ben cucinato, può essere un piatto unico dove non devi badare ad altre cose, magari con un buon vino. Beh, il riso ce l'ha questa cosa, quello che dicevi prima, no? Che il riso è un foglio bianco. In il riso è un si foglio combina bianco, tutto. Il riso è l'ingrediente che nutre più persone nel mondo. Il riso è molto importante, soprattutto adesso che con la tecnologia siamo riusciti ad arrivare quasi alla perfezione del chicco. C'è un altro sviluppo, che è quello di avere veramente, come dico io, un foglio bianco su cui possiamo appoggiare qualsiasi cosa in qualsiasi stagione. Cioè, la mia visione è proprio questa del foglio del riso, che ha un profumo di cereale, quindi quasi neutro, dove nel caso della panissa metterei sopra dei fagioli borlotti che ho cotto separatamente, un po' di salsiccia sgranata e un profumo di rosmarino, piuttosto che cuocerla come vuole la tradizione, dove cuoci il riso, dove c'è il fagiolo dentro, dove c'è in abbondanza olio e cipolla soffritto. Quindi sai che per me il soffritto è una cosa che non va proprio per la digestione, no? Quindi credo che io ho quel problema, infatti sono contento, perché il mio problema è proprio quello con i soffritti, ma ormai sempre più pochi servono la panista invece in modo molto più leggero, e quindi è un piatto che se mi togli il soffritto perde pochissimo, secondo me, ma guadagna in digeribilità e quindi in piacevolezza. Poi basta selezionare una buona salsiccia piemontese, un buon fagiolo, un buon fagiolo di qualità. Il riso naturalmente deve essere, secondo me, sempre più sulla stagionatura, che ha una cottura, una tenuta di cottura più interessante. Poi la panissa è fatta. Mi spieghi questa cosa delle stagionature del riso? Stagionature sono una ventina d'anni che si sono fatte prove, viene raccolto fresco. Di solito il riso viene raccolto fresco e cucinato. In questo caso viene conservato in silos di acciaio, dove con aria viene mantenuto vivo, e dopo 18 mesi, 2 anni, 3, c'è chi è arrivato anche a 7 anni di stagionatura, viene portato a cottura. Ha le caratteristiche organolettiche precise, perfette, che deve avere il riso, e in più ha una tenuta di cottura, perché il riso, non dimentichiamo, che è buono nel momento in cui, qua ti parlo da milanese, hai anche una consistenza a palato, cioè il chicco che si deve quasi sgranocchiare. E quindi deve essere croccante, quindi è molto al dente, molto al dente, è molto importante proprio per la buona riuscita del gusto del piatto definitivo. Va bene, ma avete veramente fatto, essenzialmente, mi avete fatto venire fame. Questa mi sembra la cosa fondamentale. Se Gramellini è d'accordo sul fatto della stagionatura, oppure un po' più tradizionalista sul riso fresco e poi raccolto e cucinato. No, io sono d'accordo, ma volevo fare una domanda sotto riguardo. Cioè, ho l'impressione che il riso stia anche da noi sempre più sostituendo il pane. Cioè, sta diventando davvero qualcosa che accompagna sempre di più proprio l'intero pasto. È vero o è una mia? È vero, è verissimo. Io posso portare un esempio dei viaggi nel mondo che faccio, che è ormai da un po' di anni che frequento un po' l'Asia. E loro non servono prevalentemente, anzi servono prevalentemente riso e non servono pane, quindi è quell'alimento che completa una giusta dieta. E quando dico dieta dico un menù corretto, non dico dieta nel mangiare poco, ma è proprio vera questa cosa, dove viene in un menù all'italiano, dove c'è un antipasto, un primo, un secondo, io, se ho già un carboidrato come primo, non metterei mai il pane. Certo. se non dovessi mettere un primo che è il riso o la pasta, metterei sicuramente, servirei del pane magari abbinato alla carne finale, giusto per tenere la tradizione italiana. Però è molto importante questo punto sul fatto di non ripetere il carboidrato o la proteina o qualsiasi altro ingrediente in un menù corretto. Assolutamente. Il Gallo Belotti mangia riso, Gramellini? Ma io spero che non si mangi mai gol quest'anno, ma li faccia ancora tanti come l'anno scorso, quindi mangia riso, mangia qualunque cosa, è davvero un, io dico, un calciatore d'altri tempi, perché ha veramente dei valori, delle cose, cioè non sembra un giocatore del 2017, sembra un giocatore di tanti anni fa, e quindi non so cosa mangi, ma so che i genitori l'hanno cresciuto molto bene, di sicuro. Bene, Gramellini, le faccio anche un grande in bocca al lupo per stasera, perché insomma oggi è il 23 settembre ed è il giorno del derby, quindi non dico altro. Non dico altro, anche poi ci sono anche gli juventini all'ascolto, sono tutti all'ascolto, e alla fine buona panissa a tutti, questo mi viene da dirle col cuore. Grazie a Massimo Gramellini, in bocca al lupo ovviamente anche per i progetti televisivi oltre che per quelli letterari. Grazie professor Gramellini. Grazie professore. Senti, mi dici due cose sulla, abbiamo parlato molto oggi, una puntata un po' di nord, così come quella sul pomodoro la settimana scorsa, la non è puntata... proprio vero, poi no, ecco, ti porto anche al sud, ecco, appunto, portami al sud per il riso col pesce, c'è qualche consiglio, qualche segreto? Assolutamente sì. Allora, se vogliamo specificare bene nord e sud, è che a Milano o in tutto il nord facciamo risi più mantecati, al sud li fanno più sgranati, quindi nella cottura pilav, quindi utilizzando un parboiled, che è un riso trattato diversamente, che ha una consistenza diversa, dove viene cotto al forno anzitutto con un po' di acqua e un goccio di vino e qualche verdura, dopodiché viene aggiunto il pesce e terminata una cottura lunga così. Credo che in quel caso il pesce probabilmente prende più valore e ha un po' meno interessante la consistenza del riso. Al nord io lo farei in una maniera diversa, sempre col solito foglio bianco. Il pesce come va trattato nelle varie ricette di riso? Quello che ti sto dicendo io lo farei spilettando tutte le qualità di pesce, okay, che vorrei mettere sul riso, che possono essere molluschi, crostacei, pesce azzurro o altre tipologie di pesce. La preparerei, sfiletterei, preparerei tutto a parte. Farei questo mio foglio bianco che rimane base neutra, mettendo magari neanche il burro, il grana, ma mettendo un velo di olio extravergine di oliva, un goccio di aceto alla fine, e poi questo pesce che cucino in maniera precisa a parte, perché il pesce, tu sai, i filettini di pesce cuociono in pochi minuti, pochi secondi, quindi termino la cottura del pesce e l'adagio su questo velo di riso, che alla fine avrà il sentore di riso e il sentore di mare col pesce. Mi sembra molto interessante, perché risotto alla pescatora è un classico, no? Può essere. Poi spesso si sta al mare nella vita e ci sono posti peggiori, diciamo. Va bene, fra poco torniamo, perché arriva il momento più atteso, quello dell'SOS Oldani. Vi ricordiamo 349-238-6666 per i vostri messaggi vocali, WhatsApp, per chiedere proprio i consigli, i trucchi, le curiosità allo chef sul vostro modo di cucinare, le cose, le domande che avete in testa, oppure anche segreteria telefonica più tradizionale 02 46 52 41 84. Vi ricordiamo anche che c'è la mail mangiacomeparli@radio24.it, e fra poco SOS Oldani, faremo il punto sulla ricetta zafferano e riso, e poi sentiremo anche una canzone di Li scelgo io. È il momento in cui si ribaltano i ruoli. Dica. Mangia come parli. Allora, fra poco sarò interrogato dallo chef sulla ricetta che è zafferano e riso, che è il nostro riso. Già hai fatto un passo avanti, perché non l'hai chiamato risotto. Il nostro riso alla milanese smidollato, quindi senza midollo, quindi anche buono per i vegetariani, no? Giusto? Smidollato, certo che sì. Va bene. Se però non usi brodo di carne, anche. Quindi. Va bene, ma io già ho la mia ricetta, adesso non mi chiedere, c'ho tutto, ho scritto delle cose, spero che siano quelle giuste. Fra poco la ricetta, intanto vi ricordo che abbiamo anche la pagina Facebook di Mangia Come Parli, quindi per i vostri SS Oldani o le vostre curiosità o i temi dei quali volete parlare, scrivete, insomma non siate timidi, ma non siete ragazzi timidi, siete ragazzi di grande qualità. Bene, a proposito di SS Oldani, ecco la sigla. SOS Oldani. Oh, partiamo da... Sei pronto, chef? Certo, a rispondere? Prontissimo. Allora, Veronica da Como. volevo chiedere quali sono i due sapori più diversi che è riuscito a mettere insieme in un solo piatto. Scusa Veronica, questa è proprio la domanda perfetta per Oldani. Oldani ha questa filosofia delle cose opposte che si toccano con si l'equilibrio. Vai. Quindi io potrei suggerire una piccola ganache di cioccolato, che è un cioccolato molto morbido, con una fetta sottile, sta a sentire, di lardo speziato e una grattugiata di limone. Cioccolato, lardo e limone. Assaggerai. Assaggerò. Ti stupirò. Beh, anche il gelato al fungo non era male, eh? Vedi? Vedi, tu hai già assaggiato. Assaggerai e anche quel consiglio che mi hai dato sull'anguria, che era la settimana scorsa. Sale, anguria sale che valorizza, da più sostiene di più il profumo dell'anguria. Va bene, sono commosso. Okay. Marco da Roma. Ciao chef, ho un grosso problema. Stasera a cena ho un vegetariano, un celiaco e un allergico al latte, al lattosio. Che cosa preparo? Semplice, semplicissimo. Io starei sicuramente su quattro portate, anche con un menù composto all'italiana, un piatto totalmente di verdura di stagione, a seguire un piatto con legumi, anche loro di stagione. Potremmo aggiungere poca pasta o riso a seconda, anche molta, e poi pasta. Un dolce fatto con la frutta. Abbondiamo un po' con sta pasta, chef. No, però fame, insomma, eh? Bisogna, se uno è vegetariano, uno celiaco, uno lattosio, bisogna insomma dargli anche un giusto consiglio. Vai convinto. Michele da Bergamo. Siccome con gli amici ci piace tanto andare a funghi porcini e ci andiamo in questo periodo, settembre-ottobre, specie nella zona della Valle d'Aosta, siccome ne prendiamo tanti, tutti mi hanno suggerito di comprare un essiccatore per conservarli. Io però questo essiccatore non vorrei comprarlo, c'ho un freezer bello capiente, ma banalmente non posso lavarli, pulirli e surgelarli. Allora, ecco, direi... Michele da Bergamo con un accento tipicamente bergamasco, esatto. Proprio sentiva proprio, vabbè, sarà. No, e direi che la miglior cosa è quella del raccolto e poi mangiato, perché non c'è cibo migliore per poterlo gustare, per poterlo apprezzare. Direi che tra i due, anche il conservatore, il lessicatore, una piccola spesa, visto che è appassionato, la potrebbe anche fare, perché io sono del parere che il fungo congelato possa andar bene, però ricordiamoci che il 95% del fungo è acqua. Nello scongelamento, se non viene fatto bene a perfezione, si perde grande parte della qualità del cibo, del sapore. Quindi... Valeria da Milano. Mi può consigliare un modo semplice ma sfizioso per servire le fragole in tavola? Grazie. Allora, sarei naturalmente sulla stagione, quindi per noi, per me la stagione è la primavera. Io farei solo una grattugiata di ricotta affumicata, ok, appena appena, sulle fragole pulite, magari anche fragoline, quelle più piccole, di quelle di bosco, e poi due tocchi di aceto balsamico tradizionale. Beh, mi sembra interessante questa cosa. Sono un po' c'è un emozionato. Pizzico di salato, un pizzico di acidità e dolce. Vogliamo fare il jingle della ricetta? Allora, la ricetta che preparerò per Simona, non stasera perché ho una telecronaca, ma insomma che farò a breve, è zafferano e funghi. Volevo dire, sei attento, zafferano e riso, dai, ti pare che faccio zafferano e funghi, anche se non era male. Una versione, diciamo, senza midollo, smidollata del riso milanese. Allora, dovete sapere che io e Oldani non siamo molto per il soffritto, mi ha convinto, mi ha fatto il lavaggio del cervello, e quindi io prendo semplicemente una pentola calda con il carnaroli, con il riso carnaroli, lo lascio attostare, quando metto il dito e sento che è caldo, vuol dire che sta tostando bene. Occhio, non il dito sulla pentola, Lo tosto a fuoco medio-basso e poi comincio ad aggiungere quindi un pochino d'acqua. La cottura, insomma, per quella che è la mia esperienza, è intorno ai 18-20 minuti. Io uso un riso Carnaroli stagionato di 18 mesi per fare il figo. Come sto andando? Ragazzi, molto bene, molto bene. Va bene, poi metto una noce di burro, del grana padano 27 mesi, dell'aceto non balsamico, aceto di vino. Bianco, ovviamente. E al latere preparo un'infusione di zafferano con... oddio, come si chiamava lì? Maizena, ti posso aiutare. Quindi cominciamo da 10 a scendere a 8. Vabbè, ho capito. Ma no, qui sono i punti, i punteggi. Quindi poi alla fine è molto importante la mantecatura, ovviamente, ma sarà importante che io poi faccio questa infusione alla fine del piatto, anche decorativa oltre che di sapore, no? No, non dovevi dire questo, mai si decora mai in cucina. Si decora, mai si decora. Io direi fai questo sì. Questa a spirale, giusto perché in ogni cucchiaiata quando tu mangi il riso è anche il tuo pezzo di zafferano. Va bene, comunque il concetto fondamentale è un riso milanese per capirci, ma senza midollo e soprattutto senza soffritto. Fondamentale l'aspetto della tostatura, no? Esatto, perché ti dà il profumo di cereale in maniera esagerata e poi non mettiamo, abbiamo detto, vino bianco e non mettiamo il brodo. Quindi bisogna fare molta attenzione, appunto, come dice nella mantecatura, all'onda. All'onda? Sai, no? L'onda, certo. La moto? No, che è l'onda? Vabbè. Deve essere molto cremoso. Molto cremoso, molto cremoso. Bene, è arrivato il momento della canzone, perché per cucinare questo piatto... Ok, la scegli tu. Sì, siccome è molto stupido il giochino, ma insomma, visto che parliamo di riso, mi è venuto in mente Damien Rice, che è un cantautore molto raffinato, che è diventato famoso grazie soprattutto a The Blower's Daughter, la sua canzone più popolare, che era colonna sonora di Closer. Ma noi ascoltiamo Nine Crimes, che è una canzone abbastanza controversa, nella quale si parla di tradimenti, di fuga, di libertà, di contraddizioni, di piccole miserie e ovviamente di un grande perdono. Questa. Leave me out with the waste. This is not what I do. It's the wrong kind of place to be thinking of you. It's the wrong time for somebody new. It's a small cry. Got no excuse, and is that all right? Yeah. Get my gun away when it's loaded. That all right? Yeah. With you. Leave me out with the waste. This is not what I do. It's the wrong kind of place to be cheating on you. The wrong time, she's pulling me through. It's a small crime, and I got no excuse. And is that all right? Yeah. Beh, Nine Crimes, capolavoro, eh? Capolavoro assoluto. Canzone, insomma, questa, Damien Rice, David Gray, questi cantautori, diciamo, della nuova generazione, sono straordinari. Va bene, mi pare che abbiamo detto tutto sul riso, tutto, molto altro ci sarà da dire, ma insomma torneremo ovviamente già sabato prossimo. Vi ricordiamo la replica della domenica sera alle ore 20, vi ricordiamo la pagina Facebook, i messaggi per l'SOS Oldani via WhatsApp, messaggi vocali 349-238-6666 sono 4 i 6, oppure segreteria telefonica 02 46 52 41 84. Io ringrazio Gianni Scotti, ovviamente Massimo Gramellini e Valerio Berruti che ci hanno tenuto compagnia. Chef, grazie a te, grazie, grazie, e adesso prepariamoci per la prossima. Ci prepariamo per la prossima, nel frattempo ci andiamo. Vieni a cucinare un po' al ristorante per pratica e poi ci rivediamo. Va bene, stasera riso, riso, riso, mi viene da ridere, riso, questo.